It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non conosce pause, Kappa e Drago riflettono intensamente sulla differenza tra polli e galline. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Non andare avanti, che sennò non ti vedo. Tranquillo, Drago. Cos'è questo? Kappa. Che cosa ha detto? Non lo so, non ho capito. Non hai capito? Non ho capito, Drago, tu hai capito? No, io non ho capito, allora, però non ho capito neanche io. Ho chiesto a te perché pensavo avessi capito, no? Perché sono più intelligente. Magari però sono messaggi per i polli questi. Cosa dici? Messaggi per i polli? Sì, messaggi in una lingua che capiscono solo i polli. Magari sono messaggi motivazionali. Per i polli? Motivazionali per i polli? Sì, come nelle grandi aziende, no? Una specie di indottrinamento subliminale per far sì che i polli non perdano la concentrazione, non diventino anoressici e dimagriscano, e soprattutto che non smettano di fare le uova. Ma povere bestie! And the animals suffer. Kappa, che ora è? Mezzanotte. E a parte che questi non sono nemmeno polli. Ah, no. Tu che dici polli? Tu che dici? Cosa sono? Sono galline. Drago, è una fabbrica di polli, non è una fabbrica di galline. Polli, quindi. A capo, è solo un modo di dire, polli. Polli si dice per dire una cosa in generale. In realtà, in questo caso, ci si riferisce alle galline. Allora, il gallo non è un pollo. Il gallo è il gallo, ha i barbigli e la cresta. I nostri polli possono andare a cresta alta. Ma già, la cresta di gallo e l'uovo di gallina. Ma viene prima l'uovo o la gallina? Vabbè, adesso Kappa, non vorrei mica metterti a parlare dell'uovo e della gallina. Certo, Drago, è un quesito fondamentale. Certo, nessuno è stato mai in grado di dare una risposta. Lo sai perché nessuno è mai riuscito a dare una risposta a questo quesito? No. Perché a nessuno serve davvero sapere se è nato prima l'uovo o la gallina. Ma lascia stare se serve o no, Drago, la risposta la sai? No che non la so. Ecco, è un quesito insoluto. È come nella pubblicità, non si capisce per esempio se è nata prima l'esigenza di trovare un pubblico o se il pubblico c'era già e l'esigenza era soltanto quella di inventare la pubblicità da buttargli addosso, così come mangime per polli, capito? Ma non ho capito, ma buttare il mangime per polli addosso a chi? Ma cosa stiamo dicendo? Ma di che cosa stai blaterando? Ma che ora è? Mezzanotte, il punto di non ritorno. Quel che è fatto, ora serve un nuovo giorno per ciascuno di noi. La fabbrica di polli. Neoppure è. Vuol dire non che è o. Non è o. È. Non è mezzanotte è o domani o oggi. Mezzanotte è oggi e domani. È come dire, io e te, cosa siamo? Due amici, una coppia, due estranei. Beh, due estranei. Ma cosa vorresti dire? Ma come due estranei? Cioè, non è oggi o domani. Non è una questione di opporre una roba all'altra. È una roba che una cosa è contemporaneamente quell'altra. Cioè, lo ieri è il domani. L'oggi è ieri e domani. Quella cosa di non o. Cioè, non una contrapposizione aristotelica, ma è un essere insieme contemporaneamente piuttosto buddista. Cioè, del qui ed ora, il presente. Ora, qui e ora. Che ora è? Oh my goodness! What's the matter? It's midnight. È troppo tardi. In the middle of nowhere. Ehi, non o. Non siamo due o due estranei o una coppia. Noi siamo una coppia e due estranei contemporaneamente. sia maschio e femmina contemporaneamente, no. Bianco e nero. Non mi convince questa teoria, non mi perché non mi convince, ti convince, è chiaro, no. È facile, è facilissima. O siamo o siamo... E io e te, io e l'altra, io l'altra e chi? Gli altri. L'altra per dire un altro che non sei tu, cosa c'entra l'altra chi? Ho detto l'altra perché sei qui tra le mie braccia, sei una femmina, mi è venuta al femminile. Cosa c'entra l'altra e chi? L'altra chi? Cosa c'entra chi è l'altra? Che ora è? Oh mio Dio! Cosa c'è? È mezzanotte. E più tardi di quanto sembra. Ma ancora questa voce. Non lo so, sembrerebbe tedesco. Mi sembra che dica di lineare Verstärkung. Sono i messaggi per i polli, sono in tedesco. Sono i messaggi per i polli in tedesco. Io ho il sospetto che in realtà sia la voce di Himmler. Himmler? Heinrich Himmler nacque a Monaco il 7 ottobre 1900 da una solida famiglia borghese. Nel 1924 si iscrisse alle SS e poco tempo dopo venne nominato Reichsführer. Il 23 maggio 1945 si avvelenò con una fiala di cianuro di potassio nascosta fra i denti e morì. È morto. Sì, vabbè, questo lo sanno tutti, ma forse non tutti. Sanno che Himmler era un appassionato di uccelli. Ah, sì. Non solo di polli o galline, ma credeva anche che il piccione sarebbe stato il mezzo di comunicazione del futuro. Capisci? Sì. Invece di pensare a una rete telematica, pensava agli uccelli. Tutto il giorno, dietro quegli occhialini, non faceva altro che pensare agli uccelli. Ma in che senso? Ma in che senso? Nel senso che allevava i piccioni, i polli, le galline, insomma... Poi però sono morti tutti. Anche loro. Che tu. Non sono messo tanto bene. Mi sa che è aviaria questa qui, eh? Dai, aviaria. Si sente da come. Ma sì, ma tu sei influenzato dai giornali, dalla sei televisione. Hai l'aviaria. No, però tu sei influenzato dalla propaganda della TV. Perché credi che l'aviaria si possa prendere così in giro, magari mangiando il pollo fritto? No, l'aviaria la prendono solo quelli che, poverini, sono costretti a dormire con le galline, tipo i cambogiani, no? Quali cambogiani? Tu dove credi di dormire stanotte? Ah già. Ah, dormire, sognare, forse morire. La vita è sogno, come diceva Calderon. Calderon? Calderon. Calderon de Calderoli. Io parlo di Devolution. La fabbrica di polli produce. La fabbrica di polli.